voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Luca Barilla, 130 anni di storia della tavola italiana, di Anna Marino. Sono una persona un po' anomala perché conduco una vita molto particolare con degli orari un po' strani. Mi alzo al mattino molto molto molto presto perché sono una persona che dorme poco e questo mi aiuta molto a mantenere una certa attività fisica quotidiana, aiutata anche da una buona alimentazione. Non lo dico perché mi chiamo come mi chiamo, ma perché sono perfettamente consapevole che una buona alimentazione è il punto di partenza poi per condurre una vita tendenzialmente all'insegna del benessere. Quindi, parlando di dieta, io faccio una colazione abbondante al mattino, molto presto, verso le 6, a base di frutta, di acqua o di camomilla, perché sono una persona estremamente attiva fino dai primi minuti e devo tenermi calmo. E non posso bere caffè, non posso bere tè, neanche Coca-Cola, perché mi agitano e poi dopo non sono più me stesso. Quindi frutta, acqua, qualche biscotto del Mulino Bianco, lo dico non per pubblicità ma perché ci credo, perché sono buoni, e poi in ufficio quasi subito, quindi molto presto. Se non ho impegni particolari all'una torno a casa e a casa mangio sempre, sempre pasta in bianco come contorno, molti legumi e insalata e mi fermo qua, nessun caffè e poi vado avanti fino a sera. A sera cerco di tornare a casa un po' presto, verso le 6, cerco di fare una corsa a piedi visto che sono stato seduto per la maggior parte del tempo e poi alla sera mangio pesce e sempre l'insalata, carne un paio di volte alla settimana, non di più. Ha una dieta quotidiana mediterranea in piena regola, Luca Barilla, con tutti gli ingredienti della piramide della salute e si dedica all'attività fisica, come nelle ricette, quanto basta. Barilla è tra i primi gruppi alimentari italiani, leader nel mercato della pasta nel mondo, dei sughi pronti in Europa, dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei paesi scandinavi. Oltre 14.000 dipendenti, 16 marche, 1.000 prodotti, 3 milioni di tonnellate all'anno, 43 siti produttivi distribuiti in 100 paesi. Questi i numeri del gruppo Barilla, alla cui guida, da oltre 130 anni, c'è una famiglia che con i fratelli Guido, Luca e Paolo è giunta alla quarta generazione. Ma la dieta è un concetto moderno. Quando è stata fondata Barilla, invece, esisteva il modello del cibo fatto in casa. Luca Barilla spiega come è nata e come si è sviluppata l'idea da cui è nata l'azienda. Papà è di un'altra generazione rispetto a noi. Lui è nato nel 1913, io sono del 60, quindi tra me e lui c'è una notevole differenza di età. Allora, lui mi raccontava che è cresciuto a zucchero, che la sua generazione è cresciuta con lo zucchero perché era poco costoso ed è alla portata di tutti. Lo zucchero fa molto male. Però, ecco, il papà è sempre stato molto lungimirante, ha sempre parlato con persone che ne sapevano più di lui, ha capito a un certo punto che con lo zucchero e insomma determinati alimenti non si tutelava la salute delle persone, quindi già negli anni 50 ha cominciato a pensare e a dire con una certa determinazione che all'interno dell'azienda bisognava studiare prodotti di grande qualità e che considerassero la salute delle persone che li avrebbero acquistati. Barilla nasce nel 1877 con Pietro Barilla, che apre una piccola bottega di pane e pasta. Da quel momento la storia dell'azienda, per quasi un secolo, corre parallela a quella della pasta, che inizia a diffondersi in tutti gli strati sociali. Nel 1905 i figli Riccardo e Gualtiero affiancano il padre nella conduzione dell'impresa. Nel 1910 viene inaugurato lo stabilimento, fuori le mura cittadine, dotato del primo forno continuo esistente a Parma. L'attività, fino ad allora del tutto artigianale, diventa industriale. Dopo la prematura scomparsa di Gualtiero nel 1919, Riccardo Barilla punterà all'espansione dello stabilimento. Andando a ritroso nel tempo, si è scoperto però che la panificazione è nel DNA della famiglia, come spiega Luca Barilla. Noi abbiamo fatto delle ricerche sulla nostra origine di famiglia e queste ricerche, attendibili fino a un certo punto, ci dicono che la nostra famiglia nasce più o meno intorno al 1600. Con un signore che si chiamava Pietro, declinato poi con il linguaggio di allora, che veniva dal sud, dalla Sicilia, e questo signore ha cominciato lui a fare un'attività panificatoria. quindi farina, acqua e poi alla fine il pane. Attività che poi si è sviluppata nei secoli ed è diventata artigianale barra industriale verso la fine dell'Ottocento, con il fondatore della nostra azienda che si chiamava Pietro anche lui. L'azienda nasce nel 1877 con un piccolo forno che produceva pane, poi si è sviluppata e passata la pasta con la gestione della seconda generazione di mio nonno Riccardo, il quale aveva delle visioni più lungimiranti di suo padre e ha cominciato a pensare alla produzione in serie, quindi a assumere personale, a fare qualche investimento con qualche piccolo macchinario. Allora i migliori macchinari erano tedeschi, anche per la panificazione, perché la Germania ha sempre avuto la cultura del pane, quindi il nonno ha avuto questa sensibilità. Persone disposte a grandi sacrifici, sveglia all'alba e scommesse imprenditoriali fatte dai fondatori sulla propria pelle. Luca Barilla inquadra come in fotografie d'epoca le condizioni di lavoro delle prime imprese. Ricordo bene i racconti di mio padre, che definiva la sua epoca quella del pionierismo, la sua epoca e quella anche del nonno del pionierismo. Il pionierismo è nato e cresciuto in tempi difficilissimi, dove occorreva coraggio, molto coraggio, molta passione, molta determinazione. Determinazione nel senso che gli ostacoli da superare erano enormi, non ultimo quello della salute dei lavoratori nello stabilimento, in questi laboratori, che erano molto caldi, non erano condizionati, quindi si sudava e poi d'inverno c'era freddo fuori, questi ragazzi che lavoravano vicino ai forni si ammalavano, prendevano le polmoniti. Nel 1936 Pietro Barilla, figlio di Riccardo, entra in azienda per dirigere il settore commerciale, al quale dà una nuova impronta, promuovendo un'intensa attività di vendita anche al di fuori dei confini regionali. Al fine del secondo conflitto mondiale, i Barilla affrontano la ricostruzione, segnata nel 1947 dalla morte di Riccardo. Pietro e Gianni prendono le redini dell'azienda, che si consolida grazie ad alcune scelte strategiche. Luca Barilla ricorda come suo padre Pietro ha portato avanti l'azienda anche in momenti di grande difficoltà. Anche in questo caso il merito è stato di nostro padre, che per sua natura è nato intraprendente, curioso, appassionato. Lui aveva fatto la terza media, non aveva compiuto gli studi, però aveva cominciato immediatamente a lavorare. Lavoro che poi si è interrotto fin dai primi anni, c'erano le guerre in corso, seconda guerra mondiale, per cui il papà è stato chiamato diverse volte per un periodo anche molto lungo, circa 10 anni sotto le armi, poi congedato, poi richiamato, ma in quegli anni comunque ha potuto sviluppare tante conoscenze e ha potuto sviluppare questo senso innato del coraggio che lui ha sempre avuto, e questo senso di intraprendenza poi l'ha portato a viaggiare fin dagli anni 50. Lui negli anni 50 è andato negli Stati Uniti diverse volte, allora c'erano i piroscafi, mi ricordo che lui li chiamava piroscafi, gli impiegava 20 giorni, un mese ad arrivare là, e tornava a casa dopo questi viaggi con tantissime idee. E per lui l'America è sempre stata un punto di riferimento e di ispirazione importantissima. Quindi le campagne Barilla degli anni 50 e poi ancora di più quelle degli anni 60, 70 e 80 si sono sviluppate grazie alle ispirazioni che ci venivano da quel mondo. All'inizio degli anni 50 la scelta strategica è di valorizzare l'immagine dell'azienda e il marchio Barilla con investimenti tecnologici e massicce campagne pubblicitarie. Tutti i formati di pasta, fino a quel momento venduti sfusi, vengono confezionati. Sulle confezioni appare una grafica comune e unificata. È centrale in questo periodo la figura di Herberto Carboni, grafico pubblicitario di origine parmense, creatore del nuovo logo aziendale, del rinnovamento del packaging, delle campagne pubblicitarie a stampa e dal 1958 televisive. Famoso lo slogan da lui inventato con Pietrino Bianchi: con pasta Barilla è sempre domenica. Quella famosissima campagna pubblicitaria è nata da un gruppo di intellettuali coordinati dal papà, e che si sono riuniti un giorno e hanno cominciato a pensare a come trasferire agli italiani alcuni valori che potevano permeare i nostri prodotti Barilla. E ci fu un intellettuale dell'epoca, molto conosciuto allora, che lavorava nel mondo del cinema, che si chiamava Pietrino Bianchi, che durante questa riunione a un certo punto ebbe questa uscita e disse al gruppo di lavoro: ma cosa ne pensate di questo slogan, con pasta barile sempre domenica? Perché allora si lavorava in molti casi anche alla domenica, e per far festa il momento ideale era quello del pranzo. Quando Luca Barilla racconta qual era l'humus da cui è nata la capacità imprenditoriale del padre Pietro, parla di un patrimonio intellettuale trasferito in modo originale a tutta la famiglia, proprio a tavola con ospiti speciali. Il papà è stato un innovatore, un po' perché era intraprendente di natura, ma un po' perché ha avuto sempre questa sensibilità incredibile che lo ha portato a frequentare per tutta la vita persone di cultura, persone che appartenessero al mondo dell'arte, al mondo del cinema, al mondo della letteratura. È diventato amico di registi, di attori, di giornalisti, di scrittori. Qualche nome meraviglioso: il papà è stato un immenso amico di Indro Montanelli, con cui ha passato tantissimi anni in vacanza in montagna d'estate, e facevano loro due delle passeggiate che duravano tutta la mattina, ed erano quasi sempre loro due da soli. Si era formato una specie di club, e ogni tanto veniva ammesso a questo club qualche ospite speciale di passaggio. Ecco, Indro Montanelli è stato un personaggio che ha segnato profondamente il pensiero del papà. Poi c'è stato Enzo Biagi, ha conosciuto Bocca, ha conosciuto molto bene Scalfari, tutti personaggi fra l'altro che la pensavano anche in modo abbastanza diverso, e il papà era molto curioso di conoscere le varie opinioni. Poi ha conosciuto artisti, Manzù, ha conosciuto artisti del calibro di Manzù, di Guttuso, di Henry Moore, di Marino Marini, e alcuni dei quali è riuscito anche a frequentarli con una certa assiduità. E poi c'è stata una frequentazione di personaggi meno conosciuti dal pubblico, ma ugualmente importanti dal punto di vista dell'ispirazione per il papà. Persone professionisti, avvocati, medici, commercialisti, che lui invitava ogni settimana a casa. Noi eravamo dei ragazzini in quegli anni, gli anni 60-70, e pensi che il papà ha sempre desiderato che noi bambini frequentassimo questi personaggi attraverso i pranzi che il papà organizzava a casa sua. Noi eravamo dei bambini, non potevamo dire nulla, però ascoltavamo i dialoghi tra il papà e questi signori, e inconsapevolmente assimilavamo delle nozioni, dei pensieri, e poi comunque vedevamo come certi personaggi importantissimi dal punto di vista intellettuale ragionavano. E quando noi dicevamo al papà: ma papà, dobbiamo proprio venire domani al pranzo che c'è il tal dei tali, e lui diceva: venite, non dovete fare niente, state lì un'ora, vedete come ragionano queste persone, sono lezioni importanti che vi serviranno nella vita. E io mi sono accorto, poi allora non ne avevo la percezione, ma con gli anni successivi mi sono accorto che quello che mi diceva il papà era vero. Io in quelle centinaia di appuntamenti, senza esserne cosciente, ho imparato tantissime cose, e ho imparato il pensiero, a considerare il pensiero diverso, ho imparato a tollerare anche il pensiero su cui non ero affatto d'accordo. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Bentornati a questa puntata speciale di Voci d'impresa dedicata alla storia della famiglia Barilla. Con il boom economico degli anni 60 si apre una nuova fase di crescita per Barilla, che comporta nuovi investimenti. L'inizio degli anni 70 vede invece la Barilla in difficoltà, in un clima sociale conflittuale ed instabile, segnato anche da drammatici episodi di terrorismo. Molti imprenditori ne traggono conclusioni pessimistiche e decidono di ridurre o interrompere il loro impegno professionale. Tra questi vi sono Gianni e Pietro Barilla, che nel gennaio del 1971 cedono la quota di maggioranza di Barilla alla multinazionale americana Grace, che ne avrà il controllo fino al 1979. Dietro le difficoltà dell'impresa, però, c'erano anche quelle familiari, che incrinano l'attività di Pietro Barilla. Siamo alla fine degli anni 60, la Barilla è un'azienda molto solida, molto ben gestita, che riscontra anche un buon successo sul mercato. Erano anni, come dicevo prima, di grande crescita. Nel 69 questo incantesimo, anzi nel 68, comincia a incrinarsi con il movimento studentesco, che ha creato un fenomeno che poi si è riversato sull'autunno caldo, perché questo movimento poi ha avuto degli effetti anche sulla parte dei lavoratori in Italia. Nel 69 sono nati i primi scioperi violenti, le prime proteste contro il padrone. Dopodiché, già fine anni 60, primissimi anni 70, quindi 70-71, nasce il terrorismo, quindi un'ulteriore forma di protesta inaccettabile. Il papà nel 68, noi eravamo molto piccoli, ha anche un momento difficile all'interno della sua famiglia. Il papà e la mamma decidono di separarsi, quindi la mamma preferisce andare a vivere in un'altra città e noi rimaniamo con il papà, che anche in quell'occasione si è comportato molto bene, perché ha fatto da papà e da mamma per noi per alcuni anni. Però il papà si è molto indebolito nel frattempo, perché non avendo più un presidio forte in casa dato dalla mamma, essendo noi molto piccoli, e lui già aveva una certa età, perché era del 1913, ha cominciato ad avere non più tante sicurezze, a non vedere davanti a sé non più tante sicurezze. Movimento studentesco, autunno caldo, nascita del terrorismo hanno creato in lui un'ulteriore debolezza. Nel frattempo suo fratello minore, che era socio al 50% all'interno dell'azienda, che era molto più timoroso del papà, pensando ai tempi che si stavano presentando, decide di vendere. Il papà non aveva i soldi per rilevare la quota dello zio, era, come dicevo prima, fortemente indebolito per una situazione familiare che non era più la stessa di prima, ha dovuto vendere anche lui. Però la cosa bella è che subito dopo questa vendita, un paio d'anni dopo la vendita, ha cominciato a pensare a come riconquistare la sua azienda. La Barilla, tuttavia, forte delle solide posizioni competitive acquisite, continua il percorso di sviluppo. Nel 1973, anno in cui vengono acquisiti il pastificio Voiello di Torre Annunziata e la Saif di Caserta, la crisi petrolifera e il blocco del prezzo della pasta imposto dal governo italiano spingono l'azienda a diversificare la produzione e a creare una nuova linea di prodotti da forno che vedrà la luce nel 1975 con il nome Mulino Bianco. Nel 1979, in modo inaspettato e sorprendente, Pietro Barilla ritorna alla guida dell'azienda rilevandola dagli americani. Il fatturato in 10 anni decuplica. Il papà, come dicevo prima, non ha mai abbandonato l'idea di riconquistare la sua azienda. Ha cominciato a lavorare per questo più o meno nel 1974-75 e tutto lasciava presupporre che l'idea del papà fosse totalmente folle. Mettere tutto il denaro che sia, accendere debiti importanti, mettere la casa come garanzia alle banche, perché le banche, per fare il prestito, il finanziamento per il riacquisto dell'azienda, hanno chiesto tutte le garanzie, si era giocato tutto. I consulenti che aiutavano il papà in questa operazione addirittura gli sconsigliavano di farla, perché gli dicevano che non c'erano i presupposti perché questa operazione avrebbe potuto avere successo e lui si sarebbe rovinato. La cosa meravigliosa è che il papà ha continuato ad andare avanti con questo suo progetto, nonostante anche le banche non gli dessero il denaro. Il papà non si è perso d'animo, le ha provate tutte, alla fine, visto che tutti gli negavano questi aiuti, è andato a rivolgersi a questa signora svizzera che aveva conosciuto qualche anno prima in occasione di un concerto sinfonico che è avvenuto a Parma, perché il marito di questa signora era un famoso pianista. Questa signora era un'importante imprenditrice svizzera, il papà è andato da lei e le ha chiesto se lei avesse voluto affiancarlo. Questa signora incredibilmente gli ha detto: Pietro, io ho fiducia in te, credo nel tuo progetto, ti aiuto. E l'operazione si è potuta realizzare. La Cassa di Risparmio di Parma, città natale di nostro padre, ha aiutato il papà in questo caso, vedendo che c'era un finanziamento che veniva anche da questa signora. L'operazione si è conclusa nel 1979, si è conclusa ancora in piena crisi del paese. Magicamente nel 1980 avviene la marcia dei 40.000 presso la Fiat, che cambia completamente, da quel giorno cambia completamente la situazione politica, sociale, economica italiana, e l'Italia riparte. E con l'Italia riparte anche la Barilla. L'azienda si sviluppa sul fronte internazionale e gli stabilimenti passano da 5 a 25, i dipendenti da 2.000 a 8.500. Nella comunicazione della pasta, il payoff sottolinea: dove c'è Barilla, c'è casa. Perfetta sintesi del sistema valoriale e culturale di cui Pietro Barilla è stato il principale artefice, come lo è stato anche di un altro successo, tutto personale, così lo racconta Luca Barilla. Ma è successo poco dopo il riacquisto dell'azienda nel 79, che il papà porta a casa un altro progetto che aveva in mente da qualche anno, ugualmente importante, che è quello della ricomposizione della famiglia, della riunificazione dei nostri genitori. E quindi nei primissimi anni 80 il papà e la mamma ritornano a vivere insieme da persone, anche se sono rimasti separati sulla carta, però nella vita sono ritornati insieme e hanno vissuto gli ultimi 10-12 anni della vita del papà da coppia perfettamente in sintonia, in armonia, felice di condividere quest'ultima parte della vita. Ecco, questo sta a significare quanto il papà, nostro padre, poi anche noi, fosse sensibile al tema della famiglia unita, di quanto importante per lui fosse vivere circondato da questo nucleo straordinario e protettivo. Quando il 16 novembre 1993 scompare, ai figli rimane il suo ultimo messaggio: andiamo avanti, andate avanti con coraggio. La presidenza dell'azienda passa al figlio maggiore Guido, mentre Luca e Paolo sono vicepresidenti. Lo scenario economico e sociale del periodo è caratterizzato da un rallentamento dei consumi alimentari, accompagnato da mutamenti strutturali delle abitudini dei consumatori, orientate a una maggiore mobilità tra marche e a una forte sensibilità al prezzo. Viene ridefinita la Barilla del futuro. Prima l'Accademia Barilla, a difesa della cultura gastronomica regionale italiana. Poi il Barilla Laboratory for Food Culture, centro di formazione per il personale Barilla, e in seguito il Barilla Center for Food and Nutrition, un think tank di maggiori esperti mondiali in tema di nutrizione, alimentazione, ambiente. Non c'è stato un vero e proprio momento in cui noi abbiamo deciso di arrivare a organizzare questo Barilla Center for Food and Nutrition con lo scopo di sensibilizzare le persone a determinati concetti di vita e a una determinata educazione alimentare. Diciamo che siamo arrivati a questa nuova fase attraverso un processo di maturazione che però è cominciato molti, molti anni fa. La Barilla è sempre stata molto attenta ai temi del sociale, partendo con la cura e l'attenzione verso le persone che lavoravano in azienda 100 anni fa, 80 anni fa. Negli anni 50 la Barilla ha costruito a sue spese a Parma 4 palazzine, addirittura progettate dall'architetto Vietti, da destinare alle persone che lavoravano in azienda e che non avevano la possibilità di comprarsi l'appartamento. Perché nostro padre ha sempre pensato, e anche qui ci possiamo collegare al dove c'è Barilla c'è casa, ha sempre pensato che la casa fosse il primo bene fondamentale che dovesse appartenere all'uomo, alla famiglia, alla persona. Chi non poteva avere la casa poteva accedere a un fondo speciale dell'azienda destinato proprio a questa attività, a offrire a tasso zero dei prestiti alle persone per comprarsi la casa. Prestiti che potevano essere restituiti senza limiti di tempo e senza interessi, quindi era denaro quasi regalato. Quando sono nati i frigoriferi, e avere un frigorifero in casa significava permettersi un grande lusso, la Barilla ha comperato per i suoi dipendenti il frigorifero. Per chi non aveva un mezzo di trasporto adeguato per recarsi sul posto di lavoro, allora spesso si andava in bicicletta e si percorrevano molti chilometri anche al freddo d'inverno, ha regalato le vespe. Queste erano le prime attività, se vuole, a livello embrionale, sociali che l'azienda poi ha svolto nell'arco della sua vita, attività che poi si sono allargate a un pubblico molto più vasto, che oggi è quello del mondo. Avete ascoltato una puntata speciale di Voci d'Impresa dedicata alla famiglia Barilla e curata da Anna Marino.